sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 8 ottobre, il sole in regione sorta alle 7.14 e tramonterà alle 18.35. Sabato ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. I titoli. Fresco di stampa il volume Flora del Friuli Venezia Giulia, un compendio di tutte le piante della regione, frutto di 15 anni di lavoro. L'orgia rosseggiante dei somacchi, il titolo del corsivo di Licio Damiani che oggi vi riproponiamo. I piselli non sono solo quelli che si coltivano in orto, altre varietà sono importanti anche nell'agricoltura biologica. La degradazione enzimatica nei pigiati degli antociani estratti è al centro della rubrica del vino. Il tasso secolare del Prescudin è invece il protagonista della rubrica dei grandi alberi del Friuli Venezia Giulia. Gnocchi e ricotta, un connubio che trova varie ricette anche nella cucina regionale. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Quindici anni di lavoro, 700 pagine, sono questi grandi numeri della Flora del Friuli Venezia Giulia, un'opera che prosegue il lavoro iniziato tanti anni fa e che ci consegna uno spaccato della biodiversità del Friuli Venezia Giulia, appunto. Ne parliamo con il professore Francesco Boscutti, che insegna botanica all'Università di Udine e che ha partecipato a questa impresa. Una descrizione di questo volume. Beh, è un lavoro monumentale che si basa però su una lunga storia che la botanica ha qui in regione. Ricordiamo il Pirona, ricordiamo i Gortani, no? E poi la scuola di Trieste con il professor Poldini, che ha gettato un po' le basi metodologiche per compiere quello che negli ultimi 15 anni, coordinati dal professor Martini, già docente dell'Università di Trieste, gli autori, di cui faccio parte anch'io e altri colleghi dell'Università di Udine, e tanti appassionati botanici hanno realizzato, censendo con oltre 300.000 osservazioni le piante spontanee presenti nel Friuli Venezia Giulia. Un censimento che ci ha permesso di capire sì quante specie ci sono oltre 3.000. Pensate che 3.000 specie sono circa la metà della flora italiana in una regione che rappresenta poco più del 2% del territorio nazionale, quindi un'enorme diversità. Quindi come stiamo a biodiversità? Stiamo bene e soprattutto possiamo, grazie a quest'opera, tracciarne un po' le dinamiche. Cioè, in quest'opera, in queste centinaia e centinaia di pagine, abbiamo le mappe della distribuzione di ognuna di queste specie secondo un reticolo di circa 5x6 chilometri e quindi sappiamo se questa specie c'è o non c'è. E soprattutto ci permette di capire un po' che cosa è successo confrontando con le opere del passato alla nostra flora, cioè chi se n'è andato, chi è arrivato, e cercare di capire anche quali sono, secondo un punto di riflessione importante, quali potranno essere le modificazioni che avremo in futuro. Dinamiche di uscita, dinamiche di ingresso, quante piante abbiamo perso e quante stanno arrivando? Allora, pensate che sono state, rispetto alle opere precedenti, l'ultima delle quali era di circa 20 anni fa, inizio 2000, sono state perse oltre 200 specie. 200 specie che si dice si sono estinte localmente. Cioè, significa che magari in altre parti, in altre regioni ci sono, ma che qui erano presenti nell'ambito della regione e ora non ci sono più. E questo è legato ai grossi cambiamenti che ha subito anche la nostra società, l'abbandono delle pratiche silvopastorali nelle zone montane, l'intensificazione, l'urbanizzazione che è avvenuta in pianura. Tutte queste dinamiche hanno portato all'estinzione di alcune di queste specie, altre ad essere molto minacciate. Pensiamo agli emblemi della nostra flora, che sono le specie endemiche delle risorgive friulane, come ad esempio l'Armeria elodes, l'Erucastrum palustre, che sono presenti in poche centinaia di individui solo in Friuli e solo in quel che rimane del grosso sistema delle risorgive friulane. E poi ci sono i nuovi ingressi, che sono quelle che vengono definite da noi botanici le specie aliene, alcune delle quali le definiamo proprio specie aliene invasive. Specie aliene non arrivano da un altro pianeta, ma arrivano bensì da un'altra area geografica. Le migrazioni sono un fenomeno che avviene da sempre in natura. Quello che noi abbiamo fatto però con le nostre attività commerciali, soprattutto, abbiamo intensificato gli scambi e abbiamo accelerato delle cose che giustamente avvengono e arricchiscono la biodiversità del territorio, ma che con questa velocità nei processi portano a degli squilibri. Ricordiamo ad esempio l'ailanto, no? Che è stato importato a Padova per un esperimento per sostituire il gelso e il baco da seta, che attorno al 1800 hanno avuto una crisi per alcuni patogeni, e che poi da lì, da questo esperimento che non ha avuto un gran successo, ha cominciato a diventare una delle specie più comuni nei nostri boschi planiziali e collinari, diventando una specie veramente invadente ed invasiva, così come la definiamo noi. Per la lettura di corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei campi, storie, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo l'orgia rosseggiante dei Somacchi, in onda il 25 ottobre del 1992. Legge Rita Micoli. L'autunno comincia a dispiegare il gran pavese di colori. Sul carso ardono i cespugli dei sommacchi, entro l'intelaiatura selvatica delle masiere, i muretti a secco e degli aspri terreni sassosi. Dal vallone di Doberdò al mare è tutta un'orgia festosa. Rosseggiano gli incendi vegetali e la luce trae dalle foglie degli arbusti trasparenze finissime. I tralci della vite americana rigano con festoni sanguigni le vecchie muraglie ingrigite e imporporano alberi centenari di drappi e tendaggi da Technicolor sontuoso anni 40. Sfolgorano e sembrano quasi materializzarsi in vividi gialli solari i filari di gelsi nella campagna friulana e i pioppi stanno assumendo tonalità d'oro vecchio. Inquadrano i rettangoli bruni di terra arata a preparare le semine di frumento, orzo, erba medica. E sui campi resi paglierini dai fusti del mais ormai trebbiato si stagliano sparse figure di contadine intente a spigolare qualche pannocchia andata perduta. Forse conosciamo solo la sua versione orticola, ma il pisello ha ben altre applicazioni e altre coltivazioni, soprattutto nel biologico. Ci dice tutto Cristina Micheloni. Per la serie delle leguminose da granella, oggi è il turno di una specie ben nota, ma altrettanto poco considerata, il pisello. Sotto lo stesso nome includiamo le due tipologie d'uso che sottendono anche due tipologie di coltivazione. Da un lato il pisello da uso fresco, che viene raccolto a maturazione lattea e consumato subito o conservato tramite surgelazione o appertizzazione, in vasetto per capirci. A questa opzione appartiene anche il pisello mangiatutto o taccola, che si consuma con il bacello. Dall'altro lato c'è l'uso sia come alimento umano che zootecnico del seme raccolto già secco. La prima tipologia d'uso, nel contesto regionale, vede la coltivazione quasi solo a livello di orto, con semina a fine inverno e raccolta verso giugno. Purtroppo anche gli orticoltori professionisti negli ultimi anni ne hanno ridotto molto le superfici. Perché? Perché il consumatore non ha voglia di sbacellare piselli. Peccato, è una delizia che ci traghetta nell'estate ed anche l'atto di scossolare cesarons ha una sua apprezzabile dimensione zen. La seconda tipologia d'uso si basa su una coltura seminativa al pari di frumento, soia, nel senso che è completamente meccanizzata e si raccoglie con la mietitrebbia, quindi su ampie superfici. La destinazione d'uso può essere mangimistica, nel senso che è un'ottima fonte proteica per polli, galline, suine, pure per i bovini, ed anche alimentare, quindi non polli ma umani. Avete presente i sacchettini con i piselli spezzati o la parte verde di quelli con il misto di legumi? Ecco, quello lì è il loro utilizzo, prioritariamente per zuppe e minestroni. In entrambi i casi si tratta di Pisum sativum, pianta che cresce bene su terreni sciolti e ben drenati, con un pH tra il 6 e il 7,5. Il calcare attivo deve essere inferiore al 10%, altrimenti possono esservi carenze nutritive. Teme il ristagno idrico. La semina, mi riferisco al pisello proteico da raccolta secca, può essere effettuata sia in autunno verso novembre o a fine inverno verso febbraio. Le semine di febbraio comportano, in generale, maggior resistenza agli afidi e all'oidio, però molto dipende dall'andamento meteo. La semina autunnale ha il vantaggio di arrivare prima a maturazione e quindi da un lato sfuggire a colpi di calore e siccità, dall'altro libera prima il campo per le colture a seguire. Come tutte le leguminose, si arrangia con l'azoto, ma necessita di potassio. La competizione delle malerbe è un fattore di cui tener ben conto, quindi opportuno aumentare di un 10% la quantità di seme, per potersi concedere qualche strigliatura in più, la prima da effettuarsi alla seconda terza foglia vera. E il tallone d'Achille della coltura del pisello è la suscettibilità all'allettamento nelle ultime fasi prima della raccolta, soprattutto in caso di pioggia o vento. A ciò si può ben ovviare con la consociazione con cereali autunno-vernini, come orzo o frumento. Il tutto può essere poi raccolto assieme e usato tal quale, oppure separato. Per la rubrica del vino, parlando ancora della macerazione del pigiato, il professor Roberto Zironi affronta il tema della degradazione enzimatica degli antociani estratti. Per effetto dei fenomeni macerativi, la concentrazione degli antociani raggiunge dopo alcuni giorni un massimo, per poi diminuire lentamente nelle fasi successive sia di macerazione che di affinamento e conservazione del vino. Nel corso della vinificazione si possono osservare reazioni sia enzimatiche che chimiche che coinvolgono gli antociani e o i flavanoli. Sebbene entrambi i tipi di reazione avvengono simultaneamente, le reazioni enzimatiche prevalgono nei primi stadi della vinificazione, mentre quelle chimiche predominano in un secondo tempo al diminuire delle prime. Le reazioni enzimatiche iniziano quando la struttura della cellula viene danneggiata. Gli antociani non sono dei buoni substrati per le polifenolossidasi dell'uva, ma reagiscono prontamente con gli ortochinoni formati da ossidazione enzimatica a carico degli altri fenoli. La reazione globale ha come risultato un'importante perdita di colore rosso. Fortunatamente, durante la fase di macerazione e fermentazione, questa attività enzimatica ossidativa è molto limitata dal fatto che i lieviti in fermentazione competono con le polifenolossidasi per il consumo dell'ossigeno disponibile. Per la stabilità degli antociani è invece la laccasi prodotta dalla botrytis cinerea l'enzima più pericoloso, sia per l'affinità con queste molecole che per la facilità di solubilizzarsi nel succo prima e nel vino poi. La laccasi contamina quasi immediatamente tutta l'uva vendemmiata, anche se l'azione meccanica di raccolta e trasporto dell'uva è moderata. Quindi è attiva su tutto il succo, anche su quella parte derivante dagli acini sani. Inoltre, nella buccia dell'uva si concentrano i metaboliti derivanti dall'azione della botrytis cinerea sul frutto, antociani ossidati, glucani, acido gluconico, composti combinanti della solforosa, composti con odore e gusto di terra, di muffa. La maggior parte di questi composti sono relativamente meno solubili dalla lattasi, ma le azioni meccaniche su questa zona ne possono favorire l'estrazione. Risulta quindi impossibile produrre con i sistemi tradizionali di macerazione un vino rosso di colore stabile a partire da uve attaccate, anche parzialmente, da botrytis cinerea, se non operando rigidi criteri di selezione delle uve sia durante la raccolta che durante l'ottenimento del pigiato. Si deve infine ricordare che la laccasi è poco sensibile all'azione dell'anidro solforosa e quindi l'uso di tale additivo in questa fase può risultare nella maggior parte dei casi controproducente. Oggi è possibile la vinificazione delle uve rosse con acini attaccati da botrytis cinerea senza preventiva selezione, ma soltanto disponendo di attrezzature particolarmente costose che applicano i principi della termovinificazione. Per la rubrica dei grandi alberi, oggi l'ispettore della forestale Dario Di Gallo ci parla del tasso del Prescudin, una delle piante più antiche della nostra regione. L'arco di Ötzi, il cacciatore del Neolitico ritrovato da Reinhold Messner su ghiacciai del Simiraun, era costruito con il legno dell'albero che andiamo a conoscere oggi. Partiamo dalle austere, selvagge ed incontaminate montagne che costeggiano la Valcellina, dove si celano ambienti e valori naturalistici di prim'ordine. Pochi chilometri oltre Barcis, sulla sinistra, si sviluppa la foresta regionale del Prescudin, una valle chiusa, caratterizzata da un ambiente forestale estremamente vario e con caratteristiche peculiari, dove le faggette dominano il paesaggio della valle. Qui un'altra specie arborea, il Taxus baccata, comunemente il tasso, si presenta con esemplari di eccezionale bellezza. Poco a monte del centro visite, Villa Emma, gestito dal Corpo Forestale Regionale, prima seguendo il sentiero 978 e poi deviando per il Monte Medol, si trova il tasso del Bosco Medol. L'albero, tutelato come monumento naturale, cresce solitario, identico a se stesso nel corso delle stagioni. Sembra immutabile, fuori dal tempo. Alto circa 12 metri, ha una circonferenza di 4 metri ed un'età superiore ai 500 anni. Il fusto possente, dalla corteccia bruna con bellissime striature violacee o rossastre, è sorretto da un formidabile apparato radicale che sembra attanagliare l'albero al magro terreno. La densa chioma dal fogliame lucide, di un verde scurissimo, è ingentilita da curiosi frutti carnosi, gli arilli, che diventano rossi in ottobre. I suoi aghi sfruttano benissimo la poca luce che filtra attraverso la copertura dei vicini faggi, spesso dominanti. Il tasso è una specie rara che ama l'ombra, l'umidità, la freschezza di forre e canaloni. Non disdegna le rocce, crescendo molto lentamente e creando, anno dopo anno, un tessuto legnoso contemporaneamente resistentissimo ed elastico, incorruttibile nel tempo. Albero contraddittorio nel nostro immaginario per le sue caratteristiche opposte, dalla vita lunghissima ma portatore di morte. Tutti i tessuti che lo compongono sono velenosi per la presenza di un alcaloide, la tassina, altamente tossica. Per i latini era l'albero della morte, presente nei cimiteri e legato in varie civiltà al culto dei morti. Il legno era usato per la produzione di frecce, lance, picche, archi. È diventato, come altri alberi funerari, un simbolo associato al sogno dell'immortalità. Gnox di Squette di Sedon, titolo tutto in friulano oggi per la rubrica della gastronomia con Roberto Zotar. Oggi parliamo di ricotta, un latticino dalla storia antica di cui si trovano tracce già nelle civiltà sumere ed egizie. Ne parla anche Omero nell'Odissea, libro 9, in cui viene descritto il ciclope Polifemo intento nella lavorazione del latte, candido e rappreso, poco prima di vedere Ulisse. A conferire la tipica forma tondeggiante alla ricotta sembrano essere stati gli egizi, che la vendevano ai marinai greci per affrontare con un cibo fresco i primi giorni sulle imbarcazioni. I greci perfezionarono la ricetta adottata poi dai romani. Tra le testimonianze scritte, quella di Virgilio, che in un episodio delle Georgiche racconta che a scoprire il latticino fu Aristeo, figlio del dio Apollo e di Cirene, ninfa conoscitrice dell'arte dell'apicoltura, della coltivazione dell'ulivo e della lavorazione del latte grazie all'aiuto delle muse. La testimonianza del ruolo centrale della ricotta nella dieta dei romani è presente a Pompei. Qui, al centro del tempio di Iside, troviamo un canestro di ricotta bianca che risplende su uno sfondo azzurro. La ricotta non è un formaggio, è un latticino. Ciò perché per produrla non si impiega latte coagulato, come si fa per un formaggio, ma si utilizza il siero rimasto dopo la produzione del formaggio stesso. Il siero viene nuovamente cotto, cioè ricotto, e da qui il nome. Nei ricettari storici e regionali troviamo innumerevoli pietanze a base di ricotta, da minestre a gnocchi a dolci. Cosetti realizzava dei delicati gnox di Squete di Sedon, ovvero gnocchi di ricotta al cucchiaio, facendo bollire in acqua salata cucchiai di pastella ottenuta mescolando 200 g di ricotta con 300 g di farina e 100 g di burro fuso, erba, cipollina tritata. Oggi però mi piace qui ricordare gli gnocchetti di ricotta di Caterina Prato dal suo manuale di cucina mitteleuropea del 1892, riportando fedelmente la ricetta come scritta. Si tramenano 25 deca di ricotta con 3 uova, un po' di sale, panna acida e 15 deca di farina, facendone un impasto molle. Si pongono dei grossi gnocchetti in una casseruola, dove si saranno fatti scaldare 6 cucchiai d'acqua con entro 6 deca di burro cotto. Poi si copre la casseruola a ciò che non se ne possa sprigionare il vapore finché si sente grillettare il contenuto. Rosolati che siano in fondo, si aggiungono alcuni cucchiai di latte e si imbandiscono cosparsi di zucchero. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,80 e 20,10 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 21,70 e 22,20. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 17,70 e 18,20. E la soia nuovo raccolto tra 39,50 e 40 euro al quintale. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 11,90 euro il quintale e il frumento di 13,40. Leggera flessione nel comparto del bovino e macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,50 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,30 e 2,90. Prezzi fermi invece nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belgamaschi che vengono quotati tra 6,50 euro al chilo IVA compresa. I pezzati rossi fra 4,40 e 5 euro, i frisoni tra 2 e 2,20 e i bruni alpini fra 1,50 e 1,70. In lieve calo anche il mercato dei suini, con i lattonzoli 30 kg quotati franco partenza a 4,06 euro al chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 2,09. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone Udine ha determinato giovedì scorso il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo ancora in ribasso tra 49 e 51 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, ancora cenni di pesantezza con prezzi diversificati nel settore degli avicolicoli. Il valore dei poli a terra varia da 1,46 a 1,48 euro al chilo IVA esclusa, le anatre da 3,41 a 3,45, i tacchini maschi da 1,65 a 1,67, le faraone da 3,57 a 3,67, i conigli oltre 2,5 kg da 2,82 a 2,88 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Il mese appena trascorso risulta essere il mese di settembre tra i più caldi di sempre, secondo solo al 2011 per quanto riguarda gli ultimi 30 anni, con circa 2,5 gradi oltre la norma. Si conferma dunque il trend che vede settembre diventare sempre più estivo, con una temperatura media che nell'ultimo decennio si è attestata sempre più attorno ai 20 gradi, piuttosto che ai 17-18 del XX secolo, almeno per quanto riguarda la pianura. Anche la temperatura media del mare, con 24,6 gradi a Trieste, è stata la più alta misurata a settembre da almeno 30 anni, seguita a poca distanza dal 2011 e dal 2020, con ben 2 gradi più alta della norma. Ottobre è iniziato come era finito settembre, con giornate di sole e temperature molto miti, ben 3 gradi oltre la norma. A parte il 4, quando c'è stato un calo delle temperature per una modesta perturbazione, poi è tornato il sole ed il bel tempo, che andrà avanti almeno fino a fine settimana. Infatti, l'anticiclone caldo nordafricano continuerà a estendersi fino all'Europa centrale, almeno fino a venerdì prossimo. La prima decade sarà quindi probabilmente di circa 3 gradi più calda del solito. La temperatura del mare nei primi giorni di ottobre è stata di circa 23 gradi, ben 3-4 gradi oltre la norma e sui livelli massimi da quando si misura, oltre 100 anni a Trieste, contendendo il primato al 1942, che ebbe un settembre e una prima metà di ottobre eccezionalmente caldi. Interessante notare come la temperatura del mare più alta a metà del mese di ottobre negli ultimi 100 anni sia stata misurata nel 66, poco prima della disastrosa alluvione del 4 novembre. Il periodo 15 agosto-3 ottobre di quest'anno si colloca al secondo posto dopo il 2011 come periodo più caldo di fine estate-inizio autunno. Dunque, a parte la parentesi di bora della prossima notte, fino a mercoledì avremo bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per velature e venti deboli di brezza. Le temperature massime in pianura rimarranno attorno ai 25-28 gradi, ma anche in montagna le temperature diurne saranno decisamente sopra media. Di notte, invece, in pianura saranno possibili foschie o nebbie. Nella seconda parte della settimana inizierà ad accumularsi aria più umida nei bassi strati per la presenza di inversioni termiche e nel fine settimana non è esclusa qualche piovigine o qualche pioggia sparsa. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi, ai campi, ai dodis, alle San Serafin, istinis e un bocal di vin, ovvero il 12 ottobre si festeggia San Serafino con castagne e un bocale di vino, prodotti di stagione. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.